Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Prosegue il nostro percorso nei 500 anni della Riforma Luterana, 1517-2017, infatti anche oggi siamo in ascolto di uno degli incontri promossi dal Centro Universitario di Via Zabarella a Padova. Il percorso di approfondimento è incentrato sulla Lettera ai Romani e la voce di cui vi proponiamo oggi l'intervento è quella del teologo valdese Paolo Ricca sul tema La Lettera ai Romani. Romani e l'esperienza di Lutero. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Ritorno sempre volentieri in questa sala dove appunto tanti e tanti anni fa venni per la prima volta e poi per molte volte invitato da quello che è poi diventato un carissimo amico, oltre che collega, diciamo, nel ministero pastorale, che era appunto Don Cristiano, di cui ho un ricordo indelebile, molto bello. C'è chi dice che i ricordi sono il paradiso dal quale nessuno ci può cacciare, e questo vale certamente, per quanto mi riguarda, per Don Cristiano. Ma ricordo anche l'ultimo incontro che abbiamo avuto qua, dunque non è solo memoria del lontano passato, ma anche di esperienze più recenti, e sempre incontro un'atmosfera di fraternità, di amicizia, di affetto, che sono le cose più belle della vita, poi in fin dei conti della vita cristiana e della vita umana. Ora, il tema, come me lo sono trascritto attraverso la nostra corrispondenza, è la via stretta dell'Evangelo, Lutero e la giustizia di Dio. Questo è il tema che è venuto fuori dalla nostra corrispondenza, poi svolgendo il tema stesso, nella preparazione che mi sono fatto, devo ora capovolgere i due termini e dire la giustizia di Dio e Lutero, perché ciò di cui desidero parlare è sì di come Lutero ha parlato della giustizia di Dio, e lo vedremo abbastanza dettagliatamente, ma prima desidero soffermarmi con voi intorno al tema della giustizia di Dio, che è centrale nell'esperienza religiosa di Lutero, come vedremo, ma prima di Lutero è centrale nella Bibbia, e è centrale sia nell'Antico Testamento, come viene di solito chiamato, sia nel Nuovo Testamento. Mentre questa centralità della parola di Dio, della giustizia di Dio, che desidero poi un po' illustrare, non mi sembra che ci sia nella Chiesa, né nella storia della Chiesa. Quando dico Chiesa dico il cristianesimo nel suo insieme, né nell'oggi della Chiesa. Cioè, io non so quante volte voi, se frequentate le messe ad esempio, sentite parlare della giustizia di Dio come tema, cioè come qualche cosa che merita di essere meditato, che merita di essere ascoltato, che merita di essere ricevuto. Si parla più volentieri della misericordia di Dio. Anche il Papa ha creduto opportuno di indire un giubileo straordinario della misericordia. Per carità, eccellente idea, nessuno ha nulla da obiettare, ci mancherebbe altro, alla misericordia di Dio, che è il cuore stesso di tutta la rivelazione biblica, di tutta la rivelazione cristiana, è il cuore stesso della nostra fede. Però non vi nascondo che a me non sarebbe dispiaciuto se il Papa avesse indetto un giubileo straordinario della giustizia sociale. Perché questo è ciò che più di ogni altra cosa manca nel nostro mondo. Questo è ciò che provoca tutti i guai della nostra storia, della storia che stiamo vivendo, a cominciare dalle guerre. Le guerre nascono sostanzialmente, naturalmente non in maniera esclusiva, ma sostanzialmente dalle grandi disuguaglianze sociali spaventose e crescenti che esistono nel nostro mondo. E tutto il problema delle migrazioni, che tanto fanno discutere, che tante inquietudini e paure, giuste o sbagliate che siano, suscitano, da che cosa dipendono queste migrazioni? Perché la gente parte dal centro dell'Africa e se ne va dove può, in Europa, da qualunque parte, meglio che nel loro proprio paese? Perché? Ma perché c'è? Perché ci sono disuguaglianze sociali spaventose, spaventose. E quindi la giustizia di Dio è un tema che forse oggi avrebbe, cioè inciderebbe di più nella carne viva dell'umanità, viva e sofferente, viva e dolente, viva e malata dell'umanità, dello stesso tema della misericordia, pur essendo chiaro che è un tema assolutamente cristiano, eccetera, non si discute. Però il rischio, sapete che cos'è? Il rischio è che parlando di misericordia, praticamente si copra l'ingiustizia senza risolverla. Questo è il punto. E quindi c'è qui una attualità del tema della giustizia di Dio che purtroppo credo che oggi di cui non c'è, a mio modesto giudizio, sufficiente coscienza. Il nostro mondo ha sicuramente bisogno di misericordia, ciascuno di noi, lo sappiamo, ha immenso bisogno di amore, ma credo che ci sia un bisogno ancora più grande di giustizia. Perciò sono contento che il mio tema questa sera sia la giustizia di Dio, e Lutero, verrà anche Lutero, ma è più il tema della giustizia di Dio, trascende Lutero, trascende la riforma, è qualcosa che investe l'intera umanità, l'intera realtà umana. Ecco, e noi dovremmo cercare di prendere coscienza di questa dimensione fondamentale della giustizia di Dio. E quindi io suddivido la mia esposizione in due parti, la prima dedicata alla giustizia di Dio nella Bibbia e la seconda dedicata alla giustizia di Dio, secondo Lutero, nella esperienza di Lutero. Allora vengo alla prima parte, la giustizia di Dio nella Bibbia. Ho già detto che è centrale, e anche qui di solito si pensa che il Dio giusto sia quello dell'Antico Testamento e il Dio di amore sia quello del Nuovo Testamento, cioè che la giustizia di Dio sarebbe una prima fase della sua rivelazione, che poi diventa la rivelazione dell'amore e che appunto è là, è il coronamento della rivelazione di Dio. Ecco, non è così. La parola giustizia è altrettanto frequente nell'Antico quanto nel Nuovo quanto nell'Antico Testamento, e è più frequente della stessa parola misericordia, della stessa parola amore, cioè nella Bibbia, ma in tutta la Bibbia, compreso tutto il Nuovo Testamento, la rivelazione di Gesù parla più della giustizia che dell'amore, su un piano puramente statistico. Per darvi un'idea, una delle otto beatitudini è: beati gli affamati e gli assetati di giustizia, perché saranno saziati. Gesù invita i discepoli a cercare il regno e la giustizia di Dio. Il regno e la giustizia di Dio. Cioè la giustizia di Dio è costitutiva del regno di Dio. Nuovo Testamento, ultima rivelazione da parte di Gesù. E anche l'Apostolo Paolo afferma che l'uomo nuovo, cioè il cristiano, l'uomo trasformato dalla fede in Cristo, cito, è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Cioè, vedete, l'immagine di Dio, la prima parola, il primo concetto che l'Apostolo abbina all'immagine di Dio è la giustizia. E poco dopo l'Apostolo dice che il frutto della luce, che qui significa la luce interiore, cioè la luce dello Spirito Santo, il frutto della luce, dice, è tutto ciò che è bontà e giustizia e verità. Cioè, il frutto dello Spirito Santo è giustizia, non solo, ma giustizia. E l'Apostolo Pietro, nella seconda lettera, dichiara che i cristiani aspettano nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Possiamo concludere questa prima esplorazione proprio statistica dicendo due cose. La prima è la conferma della centralità della giustizia come figlia di Dio, chiamiamola così, figlia di Dio, figlia prediletta di Dio, primogenita di Dio. E la seconda è che questo attributo, questo modo di essere di Dio, questa parte profonda della sua natura, abbraccia tutta la rivelazione, dall'A alla Z, dalla Genesi all'Apocalisse. E come ho già detto, giustizia e amore non sono due fasi distinte della rivelazione, la seconda che succede alla prima, ma sono due aspetti di un'unica rivelazione che si dipana attraverso tutte le pagine della Bibbia dall'inizio alla fine. Detto questo, chiediamoci quali sono i contenuti di questa giustizia di Dio. Cioè, cosa vuol dire che Dio è giusto? Sostanzialmente i significati sono tre. La giustizia di Dio è in primo luogo la giustizia della legge, in secondo luogo è una giustizia di parte, una giustizia partigiana, e in terzo luogo è la giustizia della grazia, che è quella di Paolo naturalmente, ma Lutero è quello alla quale si è appassionato di più. Ecco. Di questa di Lutero parlerò nella seconda parte della relazione, nella prima dico qualcosa, soltanto qualcosa sulle altre due forme della giustizia, la giustizia secondo la legge e questa giustizia di parte. Cioè Dio non è equidistante. Giustizia non è equidistanza. È partigiano, Dio è partigiano. Poi nella seconda parte parlerò della giustizia della grazia, che è una rivoluzione della giustizia, una rivoluzione della giustizia. Le altre due no, sono interpretazioni profonde, intense, ma rispettano rispettano i criteri per cui si dice questo è giusto o questo non è giusto, ma la giustizia come grazia capovolge tutte le categorie, capovolge tutto quanto. E beato chi riesce a entrare in questa logica sconvolgente nel senso letterale della parola. Ma ora vediamo anzitutto qualche cosa sulla prima, la giustizia della legge, perché sono cose che conoscete benissimo, non ho bisogno neppure di dirvelo, ma tanto vale per rinfrescare questa realtà. Che cosa fa Dio dopo aver liberato il popolo dalla schiavitù dell'Egitto e averlo condotto nel deserto verso una terra promessa che alla fine non arriverà mai? Cioè, sarà raggiunta, sarà perduta, sarà di nuovo è di nuovo perduta, eccetera. Per dire che la terra promessa non è una terra, è un altro capitolo questo. Allora, che cosa fa Dio dopo aver liberato, cioè, dopo aver liberato questo popolo, averlo portato nel deserto? Uno potrebbe dire, libertà per che cosa? Per che cosa? Tu mi hai liberato? Perché? Come riempio la mia libertà? Cosa ci metto dentro? Qual è la risposta? Voi la sapete? La legge. Pensate che paradosso, già qui uno straordinario paradosso, ma come? Mi liberi per dare una legge? Sì! Ti libero per darti una legge, che non è più la legge dello schiavo, è la legge del libero, ma il libero ha una legge. Libertà non vuol dire vivere senza legge. Grandissima lezione, grandissima affermazione. Dentro la tua libertà metto la legge, come per dire che senza legge ridiventi schiavo. Metto la legge dentro la tua libertà affinché tu resti libero e non ridiventi schiavo. Anche solo schiavo di te stesso. Dunque, la legge dentro la libertà. Ma uno può chiedere, ma perché? Perché è così importante la legge? Perché senza legge? Ridivento schiavo? Perdo tutto? Perdo me stesso? Perché? Perché senza legge non c'è giustizia. Tanto è vero che questa legge che ti do come contenuto della tua libertà ne faccio addirittura il contenuto del patto tra Dio e tra me, Dio e tu, popolo, cioè il nostro rapporto vive nel dono della legge da parte di Dio e nell'osservanza della legge da parte del popolo. E qui c'è una verità profonda, profondissima, che è la legge che garantisce, che rende possibile la giustizia, e la giustizia rende possibile la convivenza pacifica, possiamo anche, insomma, programmaticamente pacifica, cioè la società. La società, il vivere non come individuo ma come animale sociale, come società. Quindi, libertà, legge, giustizia e vita sociale è un concatenamento fondamentale, costitutivo, che spiega che cosa vuol dire che Dio è giusto. Dio è giusto perché dà la legge, senza la quale non c'è giustizia, senza la quale non c'è vita sociale. Perché che cosa succede dove non c'è la legge? Succede l'arbitrio, succede che ciascuno è legge a se stesso, succede la legge della giungla. La legge della giungla qual è? È la legge del forte sul debole, del prepotente sull'inerme, del violento sul pacifico. È la fine, la morte della società, la morte della vita associata. E tutto ciò è così vero che nell'Antico Testamento troviamo un'affermazione impressionante che vi voglio riferire e che certamente avete già presente nel vostro animo, quello che Dio dice per bocca del profeta Amos, testualmente: io odio le vostre feste, non prendo piacere nelle vostre solenni adunanze. Lungi da me il rumore dei tuoi canti, che io non ho da più la musica dei tuoi salteri, ma corra il diritto come acqua e la giustizia come rivo perenne. Cioè, preferisco la giustizia a tutte le vostre liturgie, a tutti i vostri culti, a tutti i vostri salmi, a tutte le vostre preghiere, a tutte le vostre... Preferisco la giustizia, mi piace di più il diritto che le cerimonie religiose. Siamo andati in un'altra direzione. Siamo andati in un'altra direzione. Guardate, non credo di esagerare dicendo che nella Bibbia, che per noi, come sapete, è per noi tutti qua presenti, per i cristiani, è il libro della rivelazione di Dio, cioè abbiamo quella parola, non ne abbiamo un'altra. Allora, nella Bibbia la giustizia, figlia della legge, è la grande passione di Dio. Dio non si appassiona a null'altro di più che alla giustizia, al diritto. Non credo di poter dire, conoscendo un pochettino la storia della Chiesa, che questa sia stata la grande passione della Chiesa. La Chiesa ha fatto e continua a fare un'opera meravigliosa, devo dire, straordinaria di beneficenza. Non c'è che io conosca nessuna istituzione al mondo che mai in tutti i secoli della storia umana abbia fatto tanta beneficenza come la Chiesa cristiana. Questo lo dobbiamo dire, è una cosa bellissima, è una cosa eccellente, ma la beneficenza non è la giustizia. E quindi, se è vero, come è vero, che abbiamo fatto, diciamo, moltissimo, più di qualunque cosa immaginabile, fin dall'inizio, il cristianesimo si è diffuso nel mondo, nell'impero romano, anche per quello, anche perché era un luogo in cui si faceva del bene, faceva del bene. E questo è un valore immenso, però non è la giustizia, è qualche cosa d'altro, che non è in contraddizione, ma non basta la beneficenza per fare giustizia. Ecco. E di questo noi pian pianino stiamo prendendo coscienza, non per fare meno beneficenza, ma non per fare solo beneficenza. Ecco, questo è il primo significato dell'espressione giustizia di Dio. Vedete quanto è profondo, quanto è ricco questo significato, veramente straordinario. Poi c'è il secondo modo di essere della giustizia di Dio, che ho detto è una giustizia di parte, non è equidistante. In che senso è partigiana? Nel senso che afferma il diritto di chi non ce l'ha. Questo è. Nella società ebraica antica, non soltanto tra l'altro in quella ebraica e in quella antica, i soggetti deboli, privi di diritti, erano tre: gli orfani, le vedove e gli stranieri. E noi troviamo nell'Antico Testamento parole come queste, sentite bene: il Signore di Israele, il Signore del mondo, ma in particolare del popolo di Israele, ama lo straniero e gli dà pane e vestito. Amate dunque lo straniero, perché anche voi foste stranieri in Egitto. E ancora, non opprimete lo straniero, l'orfano e la vedova, approfittando del fatto che non sono tutelati dalla legge. La giustizia di Dio è partigiana, nel senso che Dio tutela quelli che la legge non tutela. Perché la legge può anche essere ingiusta. Per questo si dice sempre la legge di Dio. Tutto quello che ho detto sulla legge riguardava la legge di Dio, che non è ingiusta. Quella degli uomini sovente è ingiusta. E allora invece di essere strumento di giustizia è veicolo di ingiustizia. Allora Dio tutela quelli che la legge non tutela. E ancora, non conculcare il diritto dello straniero, perché la legge di Dio stabiliva che lo straniero godesse degli stessi diritti dell'ebreo. E allora dice non conculcare il diritto, perché la legge lo stabilisce, rispetta dunque la legge che attribuisce allo straniero gli stessi diritti. Pensate che rivoluzione sarebbe se queste parole di Dio venissero prese sul serio! Dico prese sul serio! E l'orfano, c'è una cosa bellissima riguardo all'orfano, perché l'orfano è senza genitori, quindi privo di protezione. Ecco allora quello che succede: Dio si presenta come padre degli orfani. Dice il Salmo 68, padre degli orfani è Dio, cioè Dio si fa padre di chi non ha padre. Di chi non ha padre sulla terra, ma ne ha uno in cielo che è più grande e più fedele di tutti i padri della terra. Ecco dunque la seconda caratteristica, il secondo connotato di questa giustizia di Dio è partigiana, come ho cercato di illustrare. È la giustizia che fa giustizia alle vittime dell'ingiustizia. Fa giustizia alle vittime dell'ingiustizia. E così giungiamo alla terza forma della giustizia di Dio, che è quella della grazia, quella che Lutero ha trovato nella Bibbia. Non ha scoperto nulla, assolutamente nulla, ma la Bibbia è una miniera tale con tanti di quei tesori che c'è ancora molto da scoprire, e intanto Lutero ha scoperto questa giustizia come grazia. Una giustizia paradossale, ho detto prima, che rivoluziona l'idea di giustizia. Se la giustizia partigiana di Dio, come ho appena detto, ecco, dicevo, e in che cosa consiste questa rivoluzione? Consiste in questo, che se la giustizia di Dio, partigiana di Dio, sta dalla parte delle vittime, la giustizia come grazia sta dalla parte dei colpevoli. Dei colpevoli. Sentite come la descrive l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, Sentite bene, perché sono parole sconvolgenti. Colui che non ha conosciuto peccato, cioè Gesù, Dio lo ha fatto essere peccato per noi affinché diventassimo giustizia di Dio in Lui. Rileggo. Colui che non ha conosciuto peccato, che era innocente, Dio lo ha fatto essere peccato per noi, affinché diventassimo giustizia di Dio in Lui. Non si capisce più niente. Tutto è capovolto. L'innocente, Dio lo fa essere peccatore. Il peccatore, Dio lo fa essere innocente. Affinché diventi giustizia, noi diventiamo giustizia di Dio in Lui. Noi diventiamo giusti e Cristo diventa peccatore. Che cos'è questa roba? È la giustizia della grazia, la giustizia che non si accontenta di essere giusta, ma diventa amorevole, sconfina nella misericordia, ma si chiama sempre giustizia, non è ingiustizia. Perché uno potrebbe dire, ma è ingiusto che questo innocente venga obbligato a essere peccato. Difatti ho letto recentemente un libro di un ateo militante che se la prende proprio con questo concetto, dice, ma che religione è questa qua in cui un innocente viene portato a essere peccatore, viene considerato peccatore, viene porta la pena del peccatore, la pena capitale, viene crocifisso al posto del delinquente che viene giustificato. E lui diceva, ma che religione è questa qua, che sconvolge le categorie della giustizia? Qual è l'idea? L'idea è che Dio in Gesù, perché quando si dice Gesù si dice sempre Dio. Gesù non è un altro rispetto a Dio, è sempre ancora Dio. Dio uomo, Dio nell'umano, nella condizione umana, ma è sempre Dio. Allora qual è il discorso? È che Dio si mette nella posizione del colpevole, prende su di sé la colpa, ne paga il prezzo, cioè la sanzione, la pena capitale, per liberarmi dalla colpa, dal peccato, e rendermi giusto, cioè non soltanto per rendermi libero, ma per rendermi giusto, per essere giustizia, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Questo che è, come sapete benissimo, il cuore della rivelazione cristiana, è il cuore della fede cristiana, la morte di Gesù per noi, per gli empi che siamo, per i perduti che siamo, prendendo su di sé la nostra colpa, pagandone il prezzo e liberandoci per essere giustizia di Dio in Lui. Questo è un discorso inconcepibile per i criteri umani, per il ragionamento normale delle persone. Il grande principio del diritto romano, come sapete, era uno dei grandi principi, era unicuique sum, a ciascuno il suo, cioè a ciascuno ciò che si merita. Tu sei un mascalzone e ti meriti la punizione di un mascalzone. Tu sei una brava persona, sarai premiato, sarai elogiato, eccetera. Guai a noi se non fosse così. Però non è così. Non è così. Per Dio non è così. La giustizia della grazia. Cioè, mentre il principio devi dare a ciascuno il suo, a ciascuno ciò che si merita, Dio che cosa fa? Dà a ciascuno ciò che non si merita, per niente. Non ci meritiamo quello che abbiamo ricevuto in Cristo. Dio dà la grazia a chi merita la condanna, il perdono a chi merita la punizione, la libertà a chi merita la prigione, e mette l'uomo nella pista della giustizia vissuta, cioè del fatto che la legge di Dio ridiventa pane della nostra vita, che impariamo a impostare la nostra esistenza secondo la legge, secondo la parola di Dio, per essere giustizia in Lui. Dio fa giustizia rendendo giusti. Per Dio giudicare vuol dire salvare. Ora, tutto questo discorso può suonare straniero alle nostre orecchie, per una semplice ragione, che noi oggi, nella cultura del nostro tempo, nella sensibilità anche spirituale, religiosa, culturale del nostro tempo, abbiamo perso completamente la coscienza del peccato. È un paradosso, uno dei tanti del nostro tempo, perché il nostro tempo è pieno di trasgressioni di ogni tipo a tutti i livelli, e nello stesso tempo c'è una presunzione di innocenza che impressiona. Una presunzione di innocenza. Siamo tutti innocenti, al massimo siamo vittime, ma nessuno è peccatore. E quindi, e questa è una situazione del nostro tempo, caratteristica del nostro tempo, che è completamente diversa dalla situazione di Lutero, perché Lutero era un uomo medievale e nel Medioevo la coscienza del peccato era onnipresente e anche sovente devastante, nel senso che si credeva all'inferno, tanto per cominciare. L'inferno era una realtà, le fiamme dell'inferno, insomma, non si scherza. E quindi il timore di finire all'inferno e l'angoscia di non riuscire a essere giusti davanti a Dio e quindi meritare effettivamente era all'ordine del giorno, era diffusissima. E Lutero stesso, nella sua vita, nella sua esperienza personale, ha vissuto questo che era il dramma della sua, uno dei drammi della sua generazione. Ed è per quello, io credo, una delle ragioni per cui Lutero ha avuto tanta udienza, è perché ha interpretato effettivamente quella che era una domanda diffusa in mezzo ai suoi, insomma, alla sua gente, ecco. E quindi bisogna vedere, insomma, non mi illudo che questo discorso della giustizia, della grazia, passi, non è detto. Le altre due forme della giustizia passano più facilmente, ma questa è più difficilmente, perché il presupposto è di avere un'idea di che cosa significa peccato. Ora è vero che ci battiamo tutti il petto, mea culpa, mea culpa, maxima culpa, ma sono formule liturgiche, sono formule liturgiche. Se uno chiede a una persona, ma dimmi qual è il tuo peccato? Hai un peccato tu? Sei veramente un peccatore? O è tutta una finta questo discorso del mea culpa? Qual è la tua colpa? Dimmela un po', da un nome. Non si sa che cosa dire. Non si sa che cosa dire. Cioè abbiamo perso, non è più nelle nostre corde. Ecco perché questo discorso della giustizia di Dio come grazia è complicato. Però ora devo venire a Lutero, perché se no... E allora io vi leggo una pagina sua. È una pagina tardiva, molto tarda, del 1545. Lutero muore nel 46. Quindi praticamente un anno prima di morire, rievoca, diciamo così, la sua conversione, vogliamo dire così, la sua conversione, la sua scoperta dell'Evangelo, di questa grazia, di questa giustizia come grazia, quando collocare all'inizio, diciamo, quello che viene descritto qui, naturalmente è un ricordo tardivo, quindi non prendiamolo alla lettera al 100%, però sicuramente descrive quello che è il tema del nostro discorso questa sera, cioè la giustizia di Dio, il terzo modo di essere della giustizia di Dio, che è la giustizia come grazia. Io vi leggo questa paginetta qua, perché dice meglio di quello che potrei fare io, quello che è il discorso di Lutero. Nel frattempo, in quell'anno, che può essere il 1515, può essere il 1518, in quell'anno ero stato afferrato da un intenso desiderio, certo sorprendente, di conoscere Paolo nella lettera ai Romani. Ma fino ad allora aveva costituito un ostacolo, non già una freddezza di sentimenti nel mio petto, cioè una distanza interiore, ma una sola parola che si trova al capitolo primo, versetto 17, che certamente avete già esaminato. La giustizia di Dio è rivelata. I giorni della Chiesa. Questo era l'intervento del teologo valdese Paolo Ricca, intervenuto al ciclo di incontri promosso dal Centro Universitario di Padova di Via Zabarella. Il centro sta completando proprio in queste settimane il percorso dedicato ai 500 anni della Riforma Luterana. La lettera ai Romani e l'esperienza di Lutero, questo è stato il tema promosso dal teologo Paolo Ricca, che spesso interviene proprio a Padova su questi temi. Sui temi anche dell'ecumenismo e del dialogo. Ringraziamo il Centro Universitario per la collaborazione e la condivisione di questo audio e di Daici Regia, a voi per l'ascolto, da Mirko Cavallin. Appuntamento alle prossime occasioni. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.